Tages werde ich mich freuen. Eines Tages werde ich jubeln und schreien. Tu cerca il tuo traguardo. Wie in meinen Träumen. Speriamo di non incontrarci mai. Weder tot noch tot. Ormai ho poche fish da giocare, troppi MC da sfidare, troppi film. Vedila così o cambi canale, game over. Voi con quattro facce come il poker, io che al vostro gioco non ci sto come il Joker. Fuoco, a voi mangia ciambella la Winchester. Poco e friggetta in padella come frittelle. This is my story, nato tra i 90, dove qui la bamba è l'acqua santa e il diavolo in tunica bianca. Sfianca, farsi la salita in una botta sola, ma non puoi fermarti se non sai che ce l'hai fatta. Mamma, dammi tu la forza, dammi la speranza anche stavolta di rialzarmi dalla tomba. Non ho trovato le risposte, affogato nell'alcol, e tantomeno ogni mio errore dar la colpa a un altro. Ora ho capito, devo correre, legare le mie forze, tagliare questo cazzo di traguardo. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ti ho sconfitto un piatto freddo come il sushi. Ho sempre parato al peggio, mai che te la gusti. La vita ha tanti aspetti e tanti gusti. Ma tu che ti aspetti se ti aspetti di trovare quelli giusti? Vivo nei miei dubbi, sono in paranoia. La mia vita è una troia, allora su chi è ingoia? La gente è come un boia, o sono io che non ho testa. Tutto il resto è una fogna, o solo io sono una merda. Il mio traguardo certo non è dentro una caserma con accuse a nome mio. Non sbirro che mia manetta, voglio vivere la manetta come qua direbbe un cugi. Tempo di una bombetta e scordo i miei momenti truci. La vittoria un piatto caldo, se non lo sai ti bruci. Basterebbe un soffio, ma è troppa fretta amico. Il tuo traguardo è il mio punto d'arrivo, capito? Nel senso che dove sto io, il tuo viaggio è finito. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Non ho mai chiesto scusa se ho ragione. Vivo coi miei dogmi, proprio come la tua religione. E vorrei chiederti perché, signore, ti sei portato via Bubba e gli altri senza darci spiegazione. Prega per me, viaggio dentro la mia ironia, prima che il cervello vada dritto in avaria. Starmene lontani è una mania, sento che il mio interno è messo come nasseria. Scrivo il mio percorso, tu resta lì a guardare. Parli di me nei blog e potrai solo commentare. Che parli bene o male, a me cugino conta poco. Su 100 che mi odiano, altri 1000 seguono in pieno il mio gioco. Capisci? La mia cultura è marketing, la mia appena un ariete, lo scopo resta battervi, scrausi. Non me ne fotte niente come dice Mauri, sempre a piedi in terra e con l'assetto basso come un Audi. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ormai penso di essere al traguardo, guardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto. Ormai penso di essere al traguardo, e tu pensi di fermarmi col cazzo. Sono un soldato ma non ho un'armatura, né una bandiera per la quale combatto.